Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. È la prima trasmissione dell'anno, ascoltatrici e ascoltatori, e un'antica tradizione di Radio 24 vuole che le trasmissioni abbiano una sintesi, propongano una sintesi delle cose più belle che sono andate nell'anno precedente. Cominciamo fra poco. Ciao Chiara, ti saluto addirittura. Ciao Federico, buon anno a te, buon anno a tutti. Benissimo, adesso i titoli e poi iniziamo. Pulcini e ghiandaie contano da sinistra a destra come gli umani. Il dentifricio, lo shampoo e addirittura il cioccolato radioattivi. Dopo la scoperta dei coniugi Curie, spopolano prodotti e farmaci a base di radio. Dalla rinoplastica del 500 ai concorsi di bruttezza del primo 900, ripercorriamo la storia della chirurgia estetica. Nella savana ci vogliono le formiche per tenere a bada gli elefanti. 2 anni fa ci hanno fatto credere che fosse un pesce d'aprile, perché ricordo. La notizia era uscita nel primo aprile del 2009 e la notizia era: i pulcini sanno contare. Una vera bomba. Era una bomba lanciata dai ricercatori del CIMEC, che è il Centro Interdisciplinare Mente e Cervello di Trento, e proprio l'anno scorso, nel 2010, ci hanno riprovato e ci hanno detto anche che non solo sanno contare i pulcini, ma hanno anche un metodo. Vanno da sinistra a destra, proprio come noi umani. Ti ricordi? Certo. Ecco, lo studio era stato pubblicato su una prestigiosa rivista Biology Letters e proverebbe che appunto esiste una capacità innata in questi volatili che istintivamente partono da sinistra a destra nel contare gli oggetti. Allora, avevamo sentito Giorgio Vallortigara, che è un neuroscienziato del CIME, che è appunto coordinatore di questa ricerca, e ci spiega come sia possibile che polli, ghiandaie e pulcini sappiano contare, e per di più con metodo. Ascoltiamo. È ben documentato che varie specie animali, pur non possedendo linguaggio simbolico, sono capaci di rudimentali abilità matematiche. Sono capaci sia di rappresentarsi l'aspetto cardinale del numero, quindi che ne so, il fatto che una certa quantità è maggiore o minore di un'altra, sia anche, e questo ha riguardato questa nostra ricerca, l'aspetto ordinale. E cioè la sequenza, l'ordinamento dei numeri, il fatto che 3 viene prima del 4 e dopo il 2, per intenderci. Ecco, il vostro centro, il CIMEC di Trento, lo ripetiamo, è molto attivo in questo tipo di sperimentazioni. Già l'anno scorso ci avevano fatto credere, insomma, ad un pesce d'aprile, perché la notizia appunto che i pulcini sapessero contare era uscita proprio, era stata pubblicata il primo di aprile. Però, insomma, noi abbiamo tutto approfondito, vero. Abbiamo fatto delle interviste, per chi non ci credesse può andare a vedere sul sito l'intervista www.moebiusonline.eu. E ora, professore, le galline, sì, va bene, sanno contare, i pulcini sanno contare, ma addirittura hanno un metodo, da sinistra a destra. Come avete fatto a fare questo tipo di studio? Guardi, l'osservazione è stata inizialmente un po' casuale, cioè una scoperta serendipica, come si dice. Ci stavamo occupando per l'appunto del problema di verificare se gli animali sono capaci di rappresentarsi l'ordine nei numeri. E quindi in alcuni esperimenti gli animali vedevano una serie di contenitori e dovevano imparare che muovendosi lungo la fila dei contenitori, supponiamo il quarto era quello che conteneva il cibo. E naturalmente facevamo tutta una serie di controlli per essere sicuri che fosse il numero che utilizzavano e non per esempio la distanza percorsa o lo spazio relativo tra i contenitori. Quindi provi a immaginare un lungo corridoio da percorrere, lungo il corridoio ci sono delle scatolette e lei deve imparare che non la prima, non la seconda, non la terza, la quarta è quella giusta. Quante scatolette erano in fila, per dare un'idea? Abbiamo fatto esperimenti in cui addirittura erano fino a 16. Quindi? Gli animali devono imparare all'interno della sequenza, per esempio, la quarta o la sesta posizione, quindi piuttosto numerose. E all'interno del contenitore, ad esempio nel quarto, avrebbero trovato il cibo? La pappa. Avrebbero trovato il cibo, un premio, certo. Facendo questo tipo di giochetti in un'arena circolare, ci siamo accorti che molti animali sviluppavano dei comportamenti stereotipati, cioè tendevano sempre a muoversi, a correre in una particolare direzione, cioè da sinistra verso destra. Però siccome lì la situazione era poco controllata, abbiamo deciso di verificarlo con un esperimento fatto per bene. E l'esperimento consiste appunto nel partire con una condizione in cui la linea dei contenitori è disposta verticalmente rispetto al soggetto, quindi come un corridoio da percorrere. L'animale impara per esempio una serie di 10 scatolette, che la quarta è quella giusta, e poi quando ha imparato per benino ruotiamo la linea dei contenitori e la disponiamo orizzontalmente rispetto all'animale. Quindi di fronte. Di fronte. Quindi a questo punto per noi, ma anche per il pulcino, per le nocciolaie, su cui i colleghi canadesi hanno fatto il medesimo esperimento, si tratta di decidere liberamente se il conteggio può partire da sinistra oppure da destra, e uno si potrebbe aspettare una scelta casuale, che so che metà degli animali preferiscono una direzione, una metà l'altra. Invece quello che succede è che quasi all'unanimità gli animali procedono al conteggio da sinistra verso destra, quindi scelgono il quarto in quella direzione, ma non da destra verso sinistra. E a questo che tipo di spiegazione possiamo dare? Fisiologica, nel senso magari vedono meglio da una parte piuttosto che dall'altra, oppure evolutiva? Ma guardi, la storia qui è un po' antica per quello che riguarda la nostra specie, perché Francis Galton, il famoso scienziato inglese, aveva osservato per primo, interrogando le persone, gli esseri umani, che noi tutti abbiamo una specie di rappresentazione dei numeri nella forma di una linea mentale, e introspettivamente questa linea mentale sembra tipicamente essere organizzata da sinistra verso destra, quindi con i numeri più piccoli che stanno a sinistra e poi a crescere via via verso destra. E è ovvio, per quello che riguarda la nostra specie, pensare che il meccanismo che produce questa particolare direzione della linea mentale dei numeri sia legato ad aspetti sociali e culturali di apprendimento, quindi per esempio la direzione in cui apprendiamo la scrittura, la lettura, per quelle culture in cui la scrittura e la lettura procede da sinistra verso destra. I dati relativi alla nostra specie per quel che riguarda questo aspetto sono un pochino controversi, nel senso che in certi compiti e in certi particolari tipi di situazioni effettivamente si dimostra che l'aspetto culturale e sociale può modulare, può cambiare la direzione della linea mentale numerica, però chiaramente nel caso degli animali questo tipo di considerazioni non valgono. Nessuno ha insegnato ai pulcini o alle nocciolaie a scrivere o a leggere in una particolare direzione, e quindi noi pensiamo che la spiegazione abbia piuttosto a che fare con il fenomeno della specializzazione emisferica, cioè con il fatto che la metà destra e sinistra del sistema nervoso svolgono compiti parzialmente differenti, e sappiamo, sulla base di vari altri esperimenti, che quando sono attivi, diciamo così, innescati certi compiti ed è attivato quindi un particolare emisfero, l'animale e gli uomini pure tendono a prestare attenzione ad un particolare emicampo visivo, cioè ad una porzione dello spazio personale che sta sulla destra oppure sulla sinistra. Va bene, professore, lei ci ha mandato anche un video che ritrae appunto il teatro dell'esperimento, che trovate sempre sul nostro sito. Grazie e davvero buon lavoro. Buonasera, Valortegana. Buonasera. Vedi, Chiara, sono delle galline. Sì. Ecco, ogni volta che vediamo sempre così. Una volta scimmia, una volta gallina. Grazie, Federico. Era il 29 novembre del 1942, John Pritchard, pilota di un Grumman F4 da ricognizione, stava volando lungo le coste della Groenlandia insieme a due compagni di missione. Il loro compito era perlustrare le coste nord-occidentali in quell'inverno nel quale le sorti della guerra nel Nord Atlantico volgevano al peggio per la forza aggressiva e vincente della marina tedesca e dei suoi sommergibili, e l'aviazione statunitense perlustrava tutte queste coste. Qualcosa a quell'aereo accade, ma nessuno ha mai saputo che cosa. 20 giorni dopo, Nancy Pritchard, sorella 19enne di John, riceveva con una telefonata da sua madre la notizia che il fratello era dato per disperso. Sono passati 68 anni e Nancy è oggi un'anziana signora di 87 anni. Una foto di queste settimane la ritrae con un album di famiglia nel quale appare una foto del fratello in divisa. Nancy ha un'espressione serena, quasi felice. Ha saputo che un team team di ricercatori sta partendo per la Groenlandia alla ricerca dell'aereo di suo fratello. 3 anni fa il gruppo iniziò a mettere insieme alcuni dati dispersi provenienti da diverse fonti, riuscendo a stabilire che l'aereo, probabilmente per un guasto, era caduto in una zona vicino alla baia di Kogi, una zona di 3 miglia quadre. Per questa ricerca sarà utilizzato un insieme di apparecchiature tecnologicamente avanzate. Innanzitutto sarà impiegato un radar in grado di penetrare gli strati di ghiaccio, ma anche dispositivi capaci di sciogliere rapidamente il ghiaccio stesso. Quindi un sistema che, dopo aver creato dei fori profondi, potrà scattare delle immagini. Quando si parla di profondità, tuttavia, si parla di 10, forse 15 metri, non di più. Il relitto non può essere a profondità maggiori, calcolando quale sia normalmente la formazione degli strati. Anzi, è proprio questo dato all'origine della scelta di andare alla ricerca di John Pritchard e del suo Grumman. È vero che se queste nuove tecnologie combinate avessero successo, le si potrebbe impiegare in altri analoghi recuperi, ma in questo caso si è voluto prevenire o almeno tentare lo scioglimento di vaste porzioni dei ghiacci determinato dai cambiamenti climatici. Come già è avvenuto in qualche caso, tali scioglimenti riportano alla luce i resti di uomini e storie senza che nessuno se ne accorga per molto tempo. Se questa eventualità si può evitare, bene, è cosa buona. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Creme, shampoo, dentifrici ci sono ancora oggi. Ci sono ancora oggi, ma non sono radioattivi. Esatto, questa è la differenza. Questa è la differenza interessante rispetto al Novecento. Sì, all'inizio del Novecento era diffusissima questa cosa, per cui anche gli scienziati stessi erano molto fiduciosi sulle proprietà benefiche e curative della radioattività, del radio proprio. Che era stato scoperto dai coniugi Curie esattamente in quegli anni, e anche i coniugi Curie erano un po' maldestri, ma bisogna capirlo, non si sapeva bene come addirittura funzionasse. Pensa che fossero dei sostenitori di questa tecnica e poi si fossero un po' ricreduti nelle ultime fasi della loro vita. Comunque sentiamo questo servizio di Sara Occhipinti, che ci racconta un po' questa storia buffa ma veramente un po' tragica. Tragica, anche, sì, è importante. Arriva il sapone Toradia, a base di torio e di balsamo del Perù. Per la sua purezza, la sua dolcezza e le sue proprietà igieniche, vi proteggerà dalle alterazioni dell'epidermide e preparerà la vostra pelle all'applicazione della crema e della polvere Toradia. Raccomandato per il bagnetto dei bebè. La saponetta da 100 grammi costa 3 franchi, esclusivamente in farmacia. Tempo in cui si avvolgevano i bambini appena nati in copertine arricchite di radio. Sì, proprio l'elemento chimico che oggi tutti sappiamo essere molto pericoloso. Le loro mamme, all'avanguardia, si cospargevano il viso di creme di bellezza radioattive e bevevano con la cannuccia soda atomica e lattina, seguendo la réclame che faceva più o meno così. Zoé, la soda atomica, dona un'energia infinita, come la pila atomica. Erano gli inizi del 1900. Pierre e Marie Curie avevano appena scoperto la radioattività e nel giro di pochi anni si erano diffusi prodotti di bellezza, farmaci e cure a base di radio, che promettevano risultati quasi miracolosi. Il successo fu immediato. Il radio, però, aveva anche qualche controindicazione. Così scriveva lo stesso scopritore Pierre Curie. Sotto l'effetto dei raggi, la pelle si è arrossata su una superficie di 6 cm quadrati, come una bruciatura, senza causare dolore. Dopo diversi giorni, questo arrossamento non era aumentato di taglia, ma di intensità. Il 20° giorno si era formata una piaga che ho avvolto nelle bende. Il 42° giorno l'epidermide ha cominciato a riformarsi dal bordo della piaga verso il centro. E 52 giorni dopo l'azione dei raggi, la piaga presentava ancora, su un centimetro quadrato, un aspetto grigiastro. Nonostante queste osservazioni poco rassicuranti, i prodotti a base di radio venivano distribuiti alla stregua dei vecchi rimedi della nonna. Persino i medici credevano che questo nuovo elemento potesse curare le malattie più diverse. Queste le parole del dottor Darier, pronunciate durante una conferenza organizzata presso la Facoltà di Medicina di Parigi nei primi del Novecento.